Tempo di Sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scaltritti in regia sulle mani. Ricomincia il campionato dopo queste lunghissime vacanze, ricomincia naturalmente il campionato di calcio, perché gli altri in molti casi, dal basket alla pallavolo, non si sono nemmeno fermati, e noi siamo qui per parlarne con voi. 800 24 0024, ma soprattutto con il mio amico Andrea Zorzi. Ciao Andrea. Ciao Carlo, ben ritrovato e ben ritrovate tutti. Sai quanto ti è mancato il campionato di Serie A? Il calciomercato, mi è mancato un po' di più. Ti è mancato il calciomercato? Allora sei in una botte di ferro, perché oggi ne parliamo a lungo. Come saprai, in fondo, in questi giorni, la mia sensazione è che la ripresa del campionato sia un fatto quasi accidentale, no? L'immagine è quella di un pallone che ricomincia a rimbalzare in un grande aeroporto dove c'è chi va a Rio, chi torna da Rio. Così. Chi torna da Londra e chi se ne frega se poi giocano, vediamo. Il calcio giocato è di fatto ciò che rimane del passato. Una volta era al centro dell'attenzione, adesso fa un po' brutto dire che in realtà ci interessa relativamente poco di quel che avviene in campo e molto più di ciò che avviene fuori. E però insomma ci vuole ancora, come dire, sai, quel po' di preoccupazione, per non dire fino in fondo. Che poi... è il fascino del mistero, l'ultimo mistero che resta, no? Poi per il resto abbiamo guardato sotto le gonne al mondo del calcio, e lo facciamo continuamente. Sì. No? Tra l'altro, come saprai, il giocatore del momento è uno che, come Cassano, ha fatto un sacco di capricci nel suo club, ha mandato a quel paese questo e quell'altro, è stato messo fuori rosa e adesso riceve il premio di un grande interessamento da parte del Milan, dell'Inter, del Paris Saint-Germain, di tutto il mondo, ed è Carlitos Tevez. Sì, no, ma è assolutamente slegato, privo di ogni logica in questo senso. Questo è sorprendente perché talvolta il mercato ha una sua ragione di esistere, perché si spostano grandi atleti per questioni economiche, per questioni anche di bravura. È strano alla fine che però il mercato sia diventata la vera grande necessità da portare avanti per l'intera stagione, e poi i trasferimenti se ne fanno solo un po', tanti ma solo un po'. Qualche volta, quando è il turno di Tevez, lui diventa il giocatore più forte del mondo. Oggi anch'io, guardando un po', ho visto la conferenza stampa di Roma. Sì. E gli dicevano, chiedevano dopo la partenza l'infortunio di Osvaldo e la partenza adesso di Borriello, chi parte, ma sarebbe uno che sta in panchina, che gioca, Bojan cosa fa? E Ricchezza ha risposto: beh, se arriva Messi puoi metterlo in panchina. No, ma sai che adesso a Roma c'è un'altra questione, no? Quella del rinnovo del contratto di Daniele De Rossi, ossia quando in tempi di crisi neanche 6 milioni bastano più e ci devi pensare un po'. Tra l'altro oggi avevo sentito che il manager di Rossi è Berti, il manager di Mancini è un amico di Berti. Sì. E allora i tifosi romanisti la vedono male, perché sono convinti che questi due, anche per questioni personali, portano più verso Manchester che verso Roma. E poi ti domandi perché interessa così tanto il mercato, perché è veramente un intrigo, è il trionfo della dietrologia, anche se vogliamo. 800 24 00 24 per chiacchierare con noi a schema libero, ma anche perché secondo me un altro personaggio di questi giorni non è Tevez, non è nemmeno De Rossi, è questo ragazzo che gioca nel Gubbio, Simone Farina, che insomma è in atto un processo di beatificazione di questo calciatore Carneade, che appunto ha svelato questo tentativo di corruzione, come ben saprai, da parte del suo compagno di squadra Zamperini, che un giorno lo chiama, poi va lì, 200.000, se tarocchi la partita di Coppa Italia con il Lecce, lui va a denunciare tutto, e adesso arriva la convocazione, l'invito di Prandelli al prossimo raduno della Nazionale a febbraio, arriva l'invito di Blatter alla cerimonia di consegna del pallone d'oro, e oggi Damiano Tommasi, inviti su inviti, smetterà anche di fare il calciatore. Tra l'altro è rientrato ieri dopo un'assenza di un paio di mesi, e tra l'altro oggi, se guardate, c'è sulla Gazzetta dello Sport, ad esempio, pagina 19, un'intera pagina su di lui e un servizio su come ha vissuto questo rientro, questa partita in un Gubbio Bari 2-2, sono cose belle queste, sono cose interessanti. Sì, mi pare di notare un po' di ironia nel modo in cui parli di beatificazione. Beh, ma sai, alla fine è uno con la schiena dritta che ha denunciato un tentativo di reato, no? Ma è vero che in un mondo in cui le schiene dritte sono pochine, chi lo fa ogni tanto merita una menzione. Sicuramente. Nel momento stesso in cui viene inglobato, viene portato via a brandelli da chi ha interessi specifici a fare sì che il mondo sia invece in ripresa, ecco, qui viene fuori il limite di questa beatificazione che anche a me pare esagerata. Sì, tra l'altro ieri in tribuna c'era tutto il mondo del calcio, c'erano un sacco di inviati, era veramente un evento questa partita in cui era in campo un giocatore che ha denunciato un tentativo di corruzione. Ora, io sono d'accordo sul fatto, per l'appunto, che abbia fatto una grande cosa, no? Un grande gesto, che abbia avuto molto coraggio nel mondo in cui viviamo, però se uno che fa grosso modo quello che deve, quello che si dovrebbe fare, viene alzato su questo tipo di piedistallo, allora si potrebbe anche riflettere su quello che magari altri non fanno. I motivi di riflessione ci sono di sicuro. Ciò che sorprende è che è come se non fossimo più in grado di avere posizioni intermedie. O uno è ignorato o deve diventare protagonista assoluto in tutti i media, e non c'è più quella normalità che è fatta di cose belle, meno belle, che hanno, come dire, una popolarità che riguarda il tuo ambiente di vita. Solo in pochi casi c'è qualcosa che davvero merita di diventare un grande evento. Con questa fame di notizie, con questa fame di spazio, di tempo da occupare, diciamo che tutti i mass media di carta e di televisione sono la spasmodica ricerca di qualunque notizia, persona, personaggio possa in qualche modo giustificare un grande articolo. Non mi riferisco a Farina in questo caso, lui ha fatto una cosa, lo ripeto chiaramente, ha fatto una bella cosa. Ma certo, ma nessuno sta a dire che... Dopodiché anch'io... Nessuno sta a dire il contrario. Trovo addirittura che paradossalmente parte del messaggio positivo ed educativo di Farina si perda un po' in questa eccessiva pubblicizzazione del suo gesto. Sono d'accordo. 800 24 00 24 per intervenire. Per la cronaca invece, oggi, come sapete, non ho risultati di Serie B da darvi, anche perché ve li abbiamo dati stamattina, la Serie B ha giocato ieri, però la cronaca ci offre, prima di dare la palla ad Antonio da Milano, che è il primo ascoltatore in linea, ci offre due grandi risultati che arrivano dagli sport invernali. Uno è il terzo posto di Blardone nel gigante di Adelboden, vinto da Hirscher davanti a Benjamin Reich, però Blardone ha lasciato davvero molto bene, soprattutto nella prima manche. Domani c'è uno speciale, quindi attendiamo Mel Grazzoli e tutti gli altri nostri. Ma soprattutto, questa ti piacerà, caro Andrea, notizia storica, perché c'è la prima medaglia nella storia dello sport italiano nel salto. Il trampolino. Femminile. Femminile, esatto. L'ha vinta l'azzurra Lisa Demetz, che appunto è arrivata terza in questa gara a Intersarten, 23enne bolzanina, ed entra nella storia. A me capita ogni tanto di restare ipnotizzato a guardare il salto sul trampolino in cui i polacchi, i giapponesi la fanno un po' da padrone, e rimanere sempre sorpreso del fatto che, pur guardando con attenzione il punto nel quale cadono, tutte le volte mi sbaglio, perché vedo apparire in una sovraimpressione una distanza diversa da quella che mi immaginavo. Dico, ma mannaggia, ma dov'è l'errore? Quella riga lì dovrebbe essere 110 metri, 120, e non c'è verso. E passo, non dico delle ore, ma insomma dei lunghi periodi a guardare questi pazzi scatenati. Sì. Sono andato a Nagano in Giappone a vedere i trampolini, in cui c'è una storia poi incredibile con l'Olimpiade del 64 a Tokyo, e dall'alto fa paura. Fa veramente impressione. Buttati di lì. Sono veramente impressionato. Hai il coraggio. Antonio, buonasera. Buonasera. Dica. Faccio innanzitutto i miei complimenti alla trasmissione, d'obbligo. Dopodiché, quanto a De Rossi, io sono un suo estimatore, perché lo ritengo davvero uno dei più forti centrocampisti che io abbia visto giocare quantomeno negli ultimi 10 anni a livello nazionale e internazionale. E penso che si stia parlando di cifre molto molto alte. E lo diceva oggi benissimo una pubblica, lui stia facendo una scelta anche abbastanza coraggiosa rispetto al contesto e dall'ambiente in cui ha sempre vissuto e vive, che è una scelta di tutela di professionalità prima ancora che di vita o di attaccamento alla maglia, perché è un ragazzo di 28 anni che ad un certo punto prova anche a poter mettere nell'overo della possibile decisione la scelta di andarsene via da un ambiente che l'ha cresciuto, dove ha la bambina a cui tiene molto, per andare a provare anche a mettersi, perché insomma finire la carriera con il rimpianto di non di se si fosse o meno stati capaci appunto di poter giocare a livelli più alti, insomma un po' più di pressione come Madrid o come Manchester attualmente, insomma, comunque provare a diventare grandi fuori da casa propria, cosa che ad esempio Totti non ha fatto, no? È questo il discorso. Sì, la mia tesi è questa, insomma. Sì, è un po' anche la mia. Mi rendo conto che 6 milioni di euro siano tanti, però è anche vero che a quei livelli stiamo parlando di eccellenze professionali e che secondo me un ragazzo di 28 anni che si rende conto che può andarsi a mettere alla prova con realtà che sono le sue, perché lui è un giocatore di quei livelli, è un ragazzo che va capito. È anche il mio pensiero, e vedo Andrea Zosi che fa sì con la testa, un discorso interessante che faremo subito dopo il traffico. Ad Antonio si è aggiunto Andrea da Livorno, poi Alfredo da provincia di Verona, 800 24 00 24. Anticipo subito che il pensiero è un po' anche il mio, cioè la scelta di De Rossi può essere motivata dai quattrini, e non c'è nulla di male, di scandaloso, di peccaminoso, può essere motivata anche dalla necessità, sa che è l'ultimo grande contratto della carriera, appunto a 28-29 anni, ed è un professionista, può esserci anche questo discorso, provo ad essere De Rossi, ad essere uno dei più forti centrocampisti del mondo, lontano da un ambiente che comunque mi perdonerebbe ogni tipo di errore. È la scelta che Totti non ha fatto, è la scelta che De Rossi forse farà. Adesso i tifosi della Roma mi impallinano, però quello che voglio dire, che stavo dicendo ad Andrea Zorzi durante il traffico, è che io fossi in De Rossi andrei via, cioè con una grande prospettiva di carriera, una prospettiva economica, ripeto, non c'è niente di peccaminoso in tutto questo perché sono professionisti, con la possibilità di andare ad essere un grande giocatore in un altro grande club lontano da casa tua e magari fare, poi ce la vendono come esperienza di vita, ma non è escluso che possa essere davvero così. Esperienza professionale. Mi metto nei panni dell'ex atleta, pur in un contesto radicalmente diverso, con l'interesse, lo confesso, di fare esperienze all'estero. Non le ho fatte solo perché nei miei periodi il campionato italiano era così forte che gli altri erano un po' dei prepensionamenti, quindi non ho avuto il coraggio di andare all'estero per questa ragione. Credo che un qualunque atleta abbia il dovere di provare ad andare a stare meglio, e stare meglio significa situazioni ambientali, professionali, umane, anche economiche. Qual è il problema? Che sembra che solo l'ultima ragione, quella economica, sia quella predominante, e cioè che si va a stare bene solo in base a quanti soldi ti danno. Sappiamo che non è così, sappiamo anche che molto spesso questo ultimo parametro ha un peso notevole e c'è chi si muove solo per soldi, ma non possiamo dimenticare che anche gli altri sono degli aspetti sui quali vale la pena ragionare, certo. E lasciare a De Rossi, certo, in questo caso non escludere che non lo fa per soldi, non è che o fa solo per soldi o non lo fa per soldi, okay, certo, è un caso diverso da quello di Eto'o, che non è andato in Kazakistan, in Russia, là dove è andato in vacanza, questo no. È evidente, lì la componente economica è stata l'unica ragione della scelta del giocatore, e ripeto, anche da questo punto di vista non ci trovo, non lo vedo come una cosa peccaminosa. Basta che Eto'o poi non venga, come dire, a far lezioni sul fatto, però lì è assolutamente legittimo. Certo. Andrea Livorno, buonasera. Ciao. No, buonasera. No, io mi volevo riallacciare al discorso del giocatore del Gubbio. Simone Farina, sì. Sì, che ha fatto una bellissima azione, per carità. Però, come dicevate voi, si perde di vista, secondo me, rischiando di enfatizzare troppo questo gesto, quello che poi dovrebbe essere la normalità, no? O che è la normalità, e che forse nel calcio meno pagato, meno quotato, esiste ancora. Io giocavo a calcio, serie minori ho giocato, e fui contattato da un mio ex compagno di squadra dell'anno precedente per accomodare un risultato, e mi offrirono 10.000 euro, si parla di 15 anni fa, giocavo in serie D. 15.000 euro 15 anni fa, forse era 1 milione di lire. 10.000 euro, no, 10.000 euro no, c'erano già gli euro, per cui saranno stati 8-9 anni fa, insomma, 26 anni, 9 anni fa, e ancora non c'era già l'euro. Sì. E questa cosa io ne ho parlato con l'allenatore e dissi guardi, è successo questo e questo, io logicamente non sono d'accordo, deciderei se farmi giocare. Io non sono stato per niente turbato da questa cosa, non la prendo in considerazione. Poi fra l'altro giocammo, perdemmo lo stesso, però ecco, non fu dato a questo gesto così grande enfasi, perché è una cosa normale, cioè c'è un progetto di squadra, c'è un tradimento troppo grosso per chi fa queste cose, perché altera il risultato ma altera anche lo spirito di spogliatoio, che forse è questo che oggi manca, perché lo spirito di spogliatoio, la coesione di squadra fa sì che certe cose succedano di meno, che certi personaggi siano meno attaccati. Sì. Oggi purtroppo c'è un individualismo che è troppo enfatizzato, è da lì che nell'interesse personale forse Andrea, io direi che comunque il tentativo di alterare una partita che è un sistema di questo tipo è la morte dello sport, cioè è l'esecuzione, no Andrea? Sì, però non possiamo dimenticare che ciò che avviene, ciò sì. che è avvenuto più volte, e quindi in qualche modo è comprensibile la ragione per cui si trasforma in eroe un ragazzo che ha fatto il suo dovere. Ma la domanda vera è: ma perché c'è così tanto bisogno di eroi? Perché c'è questo spasmodico bisogno di far diventare tutto un gesto e la normalità sembra essere invece assolutamente da rifiutare? Questa è la vera grande domanda, ha a che fare ovviamente con il fatto che noi è come se guardassimo il mondo dal buco della serratura. Vediamo un piccolissimo spiraglio, lì dentro ci stanno poche cose, ci perdiamo la dimensione del mondo e solo chi è lì dentro è interessante. Ecco perché eroi. 800 24 0024 per intervenire, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Alfredo, provincia di Verona. Buonasera. Buonasera a lei. Volevo fare un intervento proprio sul giocatore del Gubbio, Farina, sì. che è veramente l'ultimo dei Don Chisciotte. Io sono ancora disgustato della storia della Fantamina dell'Inter che ha tirato il sasso nascondendo la mano con quello scudetto contestatissimo, che dopo è risultato che erano anche loro sì. invischiati in una brutta faccenda. Questa mi sembra un'altra storia. No, parliamo sempre di un discorso di onestà sportiva. Cioè qua il pallone a questo punto si sgonfia, perché un gesto semplicissimo come quello del giocatore, se ne sta parlando da 20 giorni, è stato portato addirittura in nazionale. E quindi quando ci sono queste storie così delle ripercussioni economiche per The Club con centinaia di migliaia di euro diventa un discorso pesante, perché l'Inter ha vinto addirittura dei campionati mondiali, Coppa dei Campioni, Coppa Italia, Scudetto, ha preso giocatori a cifre. Sì, però Alfredo, lei prende Farina per parlare dell'Inter, ripeto, mi sembrano due storie differenti. Farina ha fatto non un gesto normale ma un gesto molto doveroso certamente, ma anche molto coraggioso nel contesto in cui è avvenuto, nel contesto in cui si è mosso, in cui rientravano comunque interessi di criminalità organizzata, entravano interessi e faccende molto molto grosse, molto difficili anche da affrontare. È stato certamente coraggioso, ha fatto certamente il suo dovere. Mi pare che l'Inter, cioè la situazione a cui lei fa riferimento c'entri poco con questo, insomma, no Andrea? Sembra un discorso di onestà. Sì, no, ma questo è indubbio, mi sembrano piani differenti. La cornice esatto. all'interno del quale il calcio in generale si muove, non è solo quello delle recenti scommesse, ma anche di qualcosa che risale al passato, ed effettivamente il pallone si è sgonfiato, lo si dice da tanti anni, in realtà si sgonfia. Un pochino, quasi niente. Senti, un'altra cosa che mi ha incuriosito in questo periodo estivo, poi vi prometto che parleremo nella seconda parte. Faccio anche io una proposta. Io ti faccio una domanda sull'NBA, vai. Ma tu me ne fai una sul volley, però. Io te la stavo per fare. No, comincio io. No, prima vado con. Poi te la faccio sul volley, che è finito il girone d'andata. Tu vai con l'NBA e giochiamo a risico, magari anche con gli ascoltatori. Anzi, a trivial, anche con gli ascoltatori. Ho perso con mio figlio la settimana scorsa, ma di brutto. 800 24 00 24. Un'altra cosa che mi ha incuriosito è stato il ritorno di Thierry Henry all'Arsenal, cioè bandiera storica dell'Arsenal, dove ha giocato dal 99 al 2007, segnando una montagna di gol, giocatore, simbolo, stracampione, eccetera, aveva fatto la sua scelta di vita, no? Andando a giocare negli Stati Uniti, campionato statunitense, nel quale la sua squadra è stata eliminata, finito la stagione, è tornato all'Arsenal, si è allenato, adesso dice ma quasi quasi firmo sto contrattino di 2 mesi. E l'hanno accolto bene, no? È una mossa figlia dei tempi, una specie di... neanche un caso Beckham, però una storia di questo tipo, no? Va lì, gioca 2 mesi, torna il grande ex e sono tutti contenti. No, questo per me è un po' il mistero della Premier League, nel senso, cioè? Che è come se chi è passato di là con qualunque ruolo, anche Ancelotti ultimamente, che è un uomo insomma che ne ha fatte di esperienze, che adesso ne farà una tanto importante, però quando parlano dell'esperienza del calcio in Inghilterra lo dicono con un tono come se veramente ci fosse qualcosa di speciale. Non è più facile, non è che i tabloid non ti massacrano, non è che non c'è pressione, ma ciò nonostante è come se quell'ambiente del calcio fosse un po' diverso rispetto a quello che meglio conosciamo dell'Italia o quello bellissimo della Germania, che però non è così affascinante. C'è qualcosa di speciale e evidentemente Enrique ha avuto, è stato un grande giocatore in Inghilterra, che ne so, avrà sentito qualcosa anche, ma è strano come reagiscono, come dicevi te. Ti accolgono, ti riaccolgono. Poi per 2 mesi, cioè, ha detto vabbè, vengo qui, già che sono qui ad allenarmi, gioco con voi sti 2 mesi. È stata una L'Inghilterra, storia. La patria degli hooligans, quelli che non ti perdonano nulla, che ti massacrano, adesso lo fanno con i loro giocatori, e poi eppure l'ambiente generale. Sai, è quasi come se in Inghilterra riuscissero a spremere e a tenersi tutto il bello del calcio senza le parti peggiori, senza gli scarti. Quello che a noi arriva è sicuro, è così. Noi arriva questo. Vero? La sensazione è questa, cioè noi partita, c'è un sacco di gente, c'è grande interesse, ci sono anche i tabloid, eccetera, eccetera, ci sono i giocatori che fanno le loro cose, però in fondo è come se la luce si accendesse soltanto sulla partita, mentre poi per il resto non c'è tutto questo spremiagrumio, questo tritacarne che noi usiamo tutti i giorni. Magari è un cortocircuito. Dici. Sia mentale che storico, ma pensavo anche al fatto che forse parte del grande fascino dell'Inghilterra è in qualche modo legato a questo nome gigantesco, la Gran Bretagna, l'Inghilterra, ciò che è stato nella storia recente, ciò che passa di là è c'è la regina, ci sono, sono un sacco che hanno ancora un impatto storico su qualcuno di noi, cioè l'Inghilterra non è la Croazia. Sì. Non è la Croazia. Ascolta, prima di fermarci vado con la domanda di Pallavolo. Finito il girone d'andata, cosa resta? Ma intanto resta un campionato abbastanza equilibrato, con delle squadre forti. Macerata ha vinto grazie alla sconfitta di Trento a Latina, e Macerata è uno squadrone, è veramente uno squadrone. Rimane un campionato bello, interessante, stabile, che in questo momento è un grande merito, anche guardando alle compagne, alle pallavoliste, invece vediamo che sono problemi di natura organizzativa, logistica, Conegliano che si ritira. Questa quindi, è stata l'altra grande notizia del mondo, brutta notizia del mondo della pallavolo, esatto. nelle vacanze natali. Quindi io trovo che per quanto riguarda i maschi ci sia questa continuità, e non è un picco. Non sono questi famosi picchi, non andremo a parlare di questa girone d'andata come uno dei momenti storici, però in questi momenti mi pare che la continuità e la stabilità siano degli aspetti sui quali concentrarsi e leggere molto molto positivamente. Questo taglio di Conegliano dal campionato di Serie A femminile, come lo leggi? Prematuro, lecito, legittimo, doveroso, necessario? Mi dispiace perché era un po' prevedibile. Cioè, prevedibile. Nel senso, non era prevedibile nella persona, nella squadra, ma c'erano alcune... Prevedibile da quando? Da un po'. Comunque diciamo che la regola generale della Lega Pallavolo Femminile permetteva qualche piccolo rischio. Allora la mia domanda è: perché non è stato fatto prima dall'inizio? Perché la Lega è l'associazione dei presidenti delle squadre. E talvolta i loro obiettivi non coincidono. È chiaro che per tutti i presidenti questo è un brutto colpo che fa perdere valore al prodotto generale, ma non sempre in queste situazioni si riesce a trovare una scelta di comune accordo, ed è un peccato. È un peccato perché anche lì in genere prevale un po' l'interesse di alcuni, e questa è un po' la storia delle leghe di qualunque sport. Sì. Per cui ci troviamo nella pallacanestro dei campionati zoppi, ci troviamo nella politica. Non se ne viene a capo. che cui viene concesso di iscriversi e poi viene cancellata. E la storia si ripete fino a quando esatto, non se ne viene a capo. Qualche volta si ritiene che fare delle regolamentazioni molto rigide sia troppo rischioso, perché metterebbe a rischio proprio la... Sì, però io continuo a pensare ci vuole qualcuno che si prenda la responsabilità di dire: signori, questa situazione la conosciamo e questa squadra, ci metto la faccia io, che sia presidente federale o presidente della Lega o un presidente che vuoi tu, allora questa squadra non si iscrive al campionato perché sappiamo quali sono le condizioni e non consento la partecipazione di questa squadra al campionato. Sarebbe anche auspicabile. Una questione di responsabilità. Hai ragione, sarebbe auspicabile, ma per esempio i rapporti tra leghe e federazioni sono sempre molto complessi, perché tra Lega magari si litiga, ma quando la Lega dice attenzione, i soldi sul campionato ce li mettiamo noi, la federazione, che invece è la struttura politica, in che modo vuole entrare a decidere come noi mettiamo i nostri soldi? Richiesta, ripeto, legittima, poi porta a delle situazioni piuttosto complicate, quindi è piuttosto difficile trovare una persona che possa essere considerato super partes da prendere decisioni così importanti. Per il basket e per la cronaca, chi è senza peccato in questo campionato, senza peccato non c'è nessuno, scagli il pallone nel canestro, se me lo passino. Milano sta perdendo di 9 a Teramo sul campo del prima contro ultima e Milano è sotto di 9 a 7 e qualcosa, 7-25 dalla fine di questa partita. Teramo 61, Milano 50. Non è male questa cosa, chi è senza colpa faccia una buona azione, scagli il pallone nel canestro. Non ma... Senti, dimmela. L'NBA dopo il lockout, dimmela. Com'è? Vedo quel lockout, siamo al Circo Barnum più o meno, no? Sì. Beh, sai, inizio stagione vale un po' tutto, il contrario di tutto, squadre diciamo in rodaggio, in cui sta facendo un grande avvio di stagione il nostro mago Bargnani, che ha perso però peraltro la notte contro New Jersey, non ha giocato ai livelli delle ultime partite, 17 punti per lui, 5 su 11 da 2, 1 su 1 da 3, 4 su 5 ai liberi. Il campionato lasciamolo andare, poi tra un po' il campionato NBA comincerà a farsi interessante. Non sono granché appassionato alle prime battute del torneo, mi sembra partite Natale, poi dopo c'hanno un sacco di partite che si fanno così per arrivare ai playoff. Mi interessa di più quando difendono, e adesso non è il momento. Senti una cosa, su Bargnani, che ormai credo sia tra i più esperti italiani che giocano nell'NBA, lui com'è nel suo processo di crescita? Nel suo processo di crescita è un giocatore, ne abbiamo parlato a lungo ieri in Palla Spicchi, nel suo processo di crescita è diventato un grandissimo attaccante. È la stella di una squadra perdente come Toronto, è un giocatore che offensivamente, soprattutto in situazioni come l'inizio della stagione in cui non si difende tantissimo, è in grado di fare un sacco di cose, un sacco di punti, quindi io spero possa ancora migliorare. Certo è che preferirei vedere un giocatore con questo talento, con cifre magari meno importanti però determinanti in una squadra da titolo. Non so se succederà. Claro. Ci ho girato intorno? No. Il giusto. Cioè, il passaggio è quello. Cioè è chiaro che è un giocatore di enorme talento, però non lo puoi paragonare come è stato fatto a Dirk Nowitzki, che è uno che basta guardarli in faccia, quello vince i titoli, quello fa vincere la sua squadra, trasforma una squadra buona in una squadra da titolo, insomma, altro tipo di giocatore al momento. Da appassionato anche di basket, per esempio, c'è un altro tema interessante ed è quello di qual è l'impatto delle stelle dell'NBA nelle loro nazionali. E anche in questo senso, guarda caso, Nowitzki o altri hanno avuto effetti. Diciamo che hanno una presenza scenica diversa, eh? Ti piace questa? Michele Criscitiello da Sport Italia, ciao Michele. Ciao, buonasera, ben ritrovati e buon anno a tutti. Ciao. Buon anno anche a te, dagli schermi bollenti del mercato. Inizia il campionato, ma quasi quasi non ce ne accorgiamo, cioè leggeremo i risultati, però stiamo dietro a Tevez, a De Rossi, a Pato, che forse piglierà quell'aereo per Parigi, anche se Galiani mi pare abbia negato. Che cosa succede secondo te su questi fronti? La tua osservazione innanzitutto è la più giusta, perché i tifosi del Milan probabilmente hanno saputo soltanto oggi che domani ci sarà la sfida di Bergamo con l'Atalanta, ma tutti sanno che Carlitos Tevez praticamente ormai è quasi un giocatore del Milan, nonostante il giallo delle prime pagine della giornata di ieri con la Gazzetta dello Sport che apriva verso il Milan Tevez con il sorriso di Galliani Tevez e l'agente del calciatore del Manchester City, e il Corriere dello Sport che invece apriva con Tevez all'Inter. In questo momento il Milan è in netto vantaggio, oggi ne ha parlato anche Massimiliano Allegri, c'è l'accordo con il giocatore, ci sarà martedì un incontro importantissimo con il Manchester City e si troverà l'accordo in questo caso. Anzi, vi dirò di più, l'abbiamo già detto nel corso di speciale calciomercato su Sport Italia due sere fa, il Milan ha già opzionato e bloccato, anche se però non sono entrati nel dettaglio, Kolarov, terzino sinistro ex Lazio, che il Milan ha individuato come il dopo Taiwo, anche se non c'è mai stato un prima e durante Taiwo. Esattamente, oggetto misterioso che è rimasto tale. Andrea, mi chiedevo se per rendere più interessante, per mischiare la forza del calcio mercato col calcio giocato, non fosse interessante cambiare anche le telecronache, invece di dire questo giocatore ha fatto 7 gol, ha militato in questa squadra, e dire ha 3-4 possibili aperture, guardate che in contatto, però il giocatore, il curriculum è più io sui contatti aperti che su ciò che ha fatto. Io parlerei di calcio mercato con la partita sullo sfondo, cosa ne dici Michele? Potrebbe essere, davvero sarebbe interessante, questa è l'idea dell'anno, del 2012, io dico soltanto che parlo proprio in questo caso da giornalista televisivo che guarda molto i numeri, e lo share, le percentuali e il minuto medio, i numeri che facciamo con il calciomercato in un mese a gennaio, in 3 mesi, giugno, luglio ed agosto, non li facciamo il resto dei mesi per tutto l'anno messi insieme. Questa è un po' la bilancia, il termometro del telespettatore e del tifoso medio che adesso pensa e guarda il mercato, perché il mercato ti consente di sognare più di quel che ti potrebbe consentire di sognare il campo. Quindi nel prossimo derby Milan-Inter, invece di risultato gol fatti, vediamo trattative in corso con una barra che fa vedere quanto vicine sono alla conclusione e via dicendo, dinamiche come nella Formula 1 è presente. Tevez vince il Milan, però attenzione. vince il Milan, perché anche questo Michele mi insegna il segreto di Pulcinella, non è che devi andare tanto a parlare con il City. A proposito, ma dicono che l'Inter sia andata a parlare con il City più che per prendere Tevez, per cedere Snyder. Sì, ma non è una trattativa di gennaio, è una trattativa per giugno, dove Wesley Snyder è uno dei calciatori in partenza. Dopo Samuel Eto'o sappiamo che l'Inter continua questo tipo di mercato un po' particolare, che di sicuro non farà felici i propri tifosi. Branca sta sondando il terreno per dove cedere Wesley Snyder, c'è il Manchester United, c'è una trattativa con il Manchester City, però ci potrebbe essere anche una sorpresa. Snyder in uscita in estate, attenzione, perché ovviamente si libera il posto di Carlitos Tevez che andrà in rossonero. E poi dicevamo, perché più Milan che Inter il derby di mercato? Perché il Milan ha piazzato il colpo Montolivo, ha piazzato il colpo Carlitos Tevez, piazzerà molto molto probabilmente anche Alexander Kolarov e dovrà fare qualcosina probabilmente per la porta. In questo momento sta sondando il terreno per il portiere dell'Udinese Samir Handanovic. Per quanto riguarda la difesa, sarà un derby d'Italia, un derby di Milano, un derby delle grandi d'Italia per il difensore del Torino Gbon, valutato tra i 12 e i 14 milioni di euro. Mica poco. Questa è la telecronaca. Esatto. In attacco sulla fascia sinistra. È quello che valutazione. In questo momento permette alla gente di sognare, Michele Criscitiello. Ascoltami, un'ultima cosa, De Rossi invece, secondo te firma o no? Se non mi registri ti rispondo, se non mi registri. Hai già risposto però così allora. Sto portando avanti una tesi da 2 mesi, ci stanno raccontando Sabatini, Fenucci, Baldini quando è arrivato, De Rossi tutto ok, De Rossi le cifre ok, la durata ok, scusa ma perché allora non firma il contratto? La verità è che De Rossi sta pensando seriamente di lasciare la Roma, lo sta facendo da circa 5-6 mesi, se non dovesse rinnovare il contratto a gennaio, il 1 febbraio è libero di raggiungere un accordo con un'altra squadra. Io vedo De Rossi in questo momento tra il Manchester City 60%, 30% Chelsea, 10% Milan. Questo ovviamente se non dovesse rinnovare con la Roma, il rinnovo in questo momento è abbastanza complicato, certo, per le cifre ma anche per il progetto, aggiungerei. Sì, no, ma è chiaro, perché perderebbe De Rossi, cioè sarebbe un danno notevole, economico notevole per la Roma, a prescindere poi dal fatto che resti, sarebbe un danno... Carlo, però perdonami, è l'antimercato arrivare De Rossi in scadenza contrattuale. Ah, sicuro. È l'antimercato, scusami, però non si può perdere De Rossi a parametro. Bravissimo. Sarebbe la vergogna del mercato italiano, scusami. In compenso ha rinnovato a Totti per un sacco di anni. Per un sacco di anni. E... un sacco di soldi. E un sacco di soldi e un sacco di anche di incarichi dopo il calcio, quindi sono arrivati i Sopranos e si sono trovati lì. E si sono trovati il pacco Totti. Grazie Michele, un abbraccio. È sempre un piacere. Un abbraccio a voi, grazie a tutti, ciao. Ciao, grazie a Michele Criscitiello. Roma, Salerno, L'Aquila, questo è il tragitto che ti propongo, Andrea. Francesco da Roma, buonasera. Buonasera, scusate le campane in sottofondo. Ma perché scusate, è così bello? Dov'è? Dove si trova? Dov'è Francesco? Quando ho sentito alcune cose sulla storia di De Rossi, solamente perché capisco che quello di De Rossi sarà il contratto più importante della sua e quello conclusivo della sua carriera. Sì, però? Però Francesco, purtroppo non riusciamo a sentirla, era così bello sentire sottofondo la campagna, volevo anche sapere dov'era. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento, intanto andiamo a Salerno. Antonio. Sì, buonasera Carlo, buonasera a Zorzi. Io volevo proporre una riflessione, diciamo così. Penso che negli sport di squadra l'atleta, cioè la valutazione dell'atleta deve tenere conto delle competenze chiaramente tecniche, capacità di giocare, capacità fisica, ma anche queste competenze, ma anche le capacità di fare gruppo. Allora io penso che un calciatore come Tevez portato in Italia probabilmente non è un, anche perché non mi ricordo mai di un suo compagno di squadra di nazionale che abbia mai parlato bene di lui, ma hanno sempre cercato di ignorare la pillola sulla educazione, come dire, giovanile non all'altezza. Quindi penso che nonostante il Milan voglio dire abbia preso sempre dei calciatori come dire dal carattere difficile, ma diciamo il bilancio delle competenze e delle capacità mi sembrava comunque positivo, cosa che non mi sembra per come Tevez poi pagato a quei livelli. Sì. Ecco, questo mi piaceva insomma un po'. No, Antonio ha ragione, però da un club che ha preso Cassano, voglio dire, possono prendere anche Tevez, ma evidentemente e ha ragione, si fidano molto della forza del loro gruppo, no? Capace di comunque di metabolizzare caratteri difficili. Io confesso che alzo le mani, perché almeno un paio d'anni fa dissi: ma come gli prende al Milan di prendere Ibrahimovic? Ibrahimovic, ma come gli viene a questi qua dopo l'annata di Barcellona e via dicendo? Hanno vinto lo scudetto e Ibrahim non è diventato quell'uomo squadra che te l'immagino, grande disponibilità, è rimasto quello insomma che faccio gol io e poi faccio gol io e voi mi date la palla come la voglio io, perché sennò vi sfaculo. Ha vinto lo scudetto, come sempre con Ibrahimovic, cioè, gli ultimi 11 anni chi lo piglia e allora, può già prendere ago e filo. Allora, io penso che nella pallavolo ne sono certo, nel basket me l'immagino sia abbastanza complicato replicare l'importanza di un singolo giocatore nel corso della stagione, perché sono, per esempio, ci sono molti più punti da fare. Ci sono, però Andrea, quello che voglio dire, un gruppo forte può metabolizzare una personalità difficile. Sarà capitato anche a te di giocare con giocatori dalla testa calda, dalla personalità difficile, guarda che non gli si chiede a un giocatore di essere solo buono, disponibile, gli si chiede il rispetto professionale. Poi può essere fatto Lorenzo Bernardi, non è che fosse una persona molto simpatica, ma era un grandissimo atleta di grande rispetto professionale, un atleta meraviglioso, anche se qualche volta era un po' complicato, però non gli dici mica nulla. Discorso diverso invece quando c'è qualcuno che proprio si estranea dalla squadra e può diventare pericoloso, perché quando le cose si mettono male a quel punto c'è un alibi in più, non funziona perché. Sì, va detto anche che un carattere difficile in un gruppo solido e forte puoi canalizzarlo verso le esigenze della squadra, no? Poi metti, tu hai usato Lorenzo Bernardi, lo uso anch'io, lo metti in una squadra slegato, complicata, pur essendo un grande giocatore, ed ecco che magari vengono fuori i suoi difetti, i suoi limiti. Aggiungi anche che oltre al gruppo la società, in questo il Milan è maestro. Sì. E cioè entri qui dentro ed entri in un mondo che ha delle regole ben chiare, in cui tutti quanti si adattano, e anche Cassano, restando Cassano, ha comunque fatto meno danni che in altri posti. Quindi questa è la bravura. Ha fatto meno danni e ne abbiamo saputi di meno, anche questo, anche questo conta. È tornato Francesco da Roma, vediamo se riesco a sentire la sua voce oltre alle campane. Eccoci, adesso si sente. Da Roma era il sottofondo migliore che potessi offrire. Ma non c'è dubbio, ma io infatti la ringrazio. Lei ha detto mi scusi le campane, ma come mi scusi? Io la ringrazio di averci fatto sentire le campane di Roma. Dove si trova? Dove si trovava? Dietro una chiesa. chiesa. Sì, beh, questo una delle tante, questo lo immaginavo. Ero sotto il campanile. Ho capito. Allora, sì, la questione De Rossi. Lei ha detto prima che se De Rossi dovesse rimanere a Roma sarebbe come Totti, avrebbe l'ambiente tutto dalla sua parte. Mi dispiace contraddirla perché negli ultimi due anni in cui il rendimento di DDR è stato abbastanza insufficiente, le critiche ce ne sono state sul giocatore ed è stata forse una delle ragioni per le quali lui ancora non ha firmato, pur riconoscendogli che lui è, essendo cresciuto nel settore della Roma, sì, essendo un tifoso della Roma, avrebbe potuto anche firmare. La seconda cosa, vi faccio questa domanda: siamo sicuri che se De Rossi dovesse andare ad un'altra squadra sarebbe sicuramente uno dei numeri uno, questa, o sarebbe uno invece dei tanti? Questa è la vera domanda interessante. Io credo che De Rossi sia un giocatore straordinario, sia uno dei più forti del mondo nel suo ruolo, valga certamente anche quelle quotazioni folli di cui si è parlato, perché parliamo di leggi di mercato. La vera grande domanda è: De Rossi può essere De Rossi lontano dalla squadra in cui è cresciuto, da quella in cui il padre lavora nel settore giovanile, da quella nella quale fa il tifo fin da bambino, dalla quale ha ricevuto anche delle critiche, che però sono critiche rivolte a un figlio, non a un estraneo, no? Andrea? Sono più le difficoltà ad uscire da quell'ambiente, anche se Roma è un po' asfissiante, e uso un eufemismo in questo senso. Non ho idea se, per esempio, ancora una volta Rossi guardi al suo caro amico Totti per capire se quello è il percorso che vuole fare o se ne sono altri che sono più interessanti. In tutto questo conterà certamente anche l'aspetto economico. Sta sfruttando a meraviglia questa opportunità dello svincolo per mettere tutti quanti sul chi varà. Dopodiché mi auguro per davvero che all'interno delle ragioni attraverso le quali deciderà ci sia anche questa grande prospettiva di capire che percorso, che parabola potrebbe avere De Rossi al di fuori di quell'ambiente in cui è nato, certo, cresciuto, stato protetto ma anche criticato. Francesco dall'Aquila. Buonasera. Salve, buonasera. Una domanda, sposto un attimo l'argomento sull'NBA. Prego. Che quest'anno mi sembra forse messo un po' da parte, sarà per la sinteticità della stagione che in realtà poi si è rivelata massacrante dalle prime battute, sì, perché comunque giocare 5 partite a settimana anche per un top player con quella forma significa necessariamente poi esporsi anche a rischi di infortuni, forse anche sicuro, leggeri, ma comunque molto forti. Due domande molto sintetiche, poi vi ascolto per radio. Allora, la prima è: se gli Heat dovessero vincere quest'anno nella stagione accorciata, personalmente ritengo che se dovessero vincere loro verrà visto come una sorta di mezzo anello, dovesse vincere qualsiasi altra squadra, dai Clippers a magari un back to back dei Mavericks, sarebbe una celebrazione esagerata. Sì. Poi, spostandoci in genere, vedo forse una tendenza degli ultimi anni, la volontà di tanti club, di tante franchigie, di prendere su gente magari forte, che però in realtà non ha la testa per rimanere lì e fondare una dynasty piuttosto che portare avanti un discorso di qualche anno. Penso a Deron Williams, che ormai è quasi anche dato per fuori dai Nets verso altri lidi, o altri talenti enormi tipo Howard, Kevin Love, che giocano in franchigie che effettivamente dubito che abbiano forse più la cultura mentale che non effettivamente le capacità tecniche. Sì, Francesco, questo è corretto. Non sono uomini franchigia, comunque non sono probabilmente uomini su cui è possibile costruire una dinastia, perché di quelli ce ne sono pochi. Secondo me sono giocatori che possono andare nel caso di Deron Williams sarebbe stato il caso dello stesso Chris Paul qualora fosse andato ai Lakers. Sono giocatori che possono aiutarti a vincere molto, non sono però giocatori su cui è possibile fondare una dinastia, ma proprio per caratteristiche secondo me tecniche. Quanto alla storia del mezzo anello, beh, abbastanza condivisibile, no? Perché tutti ci ricordiamo quell'anello che vinsero i San Antonio Spurs nella stagione accorciata del 98. Quindi In effetti, se LeBron James dovesse infilarsi questo primo anello, non sarebbe, tutti gli ricorderebbero come, ah, però quello lì è quello della stagione corta. Una delle cose più complicate è uscire dall'etichetta che ti hanno appiccicato addosso. Ah, vero. È proprio difficilissimo, soprattutto per qualcuno come lui, a cui questa etichetta è stata attaccata anche a ragion veduta. Sì, come no. Quindi, Giuseppe, provincia di Bari, poi salutiamo la compagnia dell'anello. Sì, dica. Sì, buonasera, saluto affettuoso a Zorzi, in particolare perché non so se ricorda anche Gioia del Colle in termini di volley. Certo. Io ho visto giocare, quindi per noi era sempre un riferimento, almeno noi tifosi del volley. Niente, il mio intervento era sulla morte del calciomercato italiano, se come spunto di riflessione non si è vista già con il parametro zero di Pirlo al Milan l'anno scorso, visto quello che sta facendo la Juve, solo questo. Ma in realtà quella è stata una scelta tra virgolette strategica del Milan. Il Milan non voleva, per ragioni anche tecniche, e lo sappiamo, dare un lungo contratto a Pirlo, che chiedeva un contratto triennale con tanti soldi. Non veniva più visto come un giocatore essenziale, a ragione o a torto, questo non sto sindacando questo, sto facendo della cronaca. Non veniva più considerato un giocatore essenziale per il Milan di Allegri, e dunque si è scelto di lasciare andare. Non dimentichiamo che oggi le grandi difficoltà non vengono negli spostamenti dei giocatori, non vengono tanto determinate così dal prezzo del cartellino quanto da quanto guadagnano, perché insomma, ad esempio, Tevez è uno che guadagna una montagna di soldi, quindi credo che non ci siano grandi difficoltà nel mettersi d'accordo con il City poi alla fine, tra riscatto, prestito con diritto di riscatto, riscatto se vinco, se segna tot gol, eccetera. La vera difficoltà è accollarsi, vale anche per Ibrahimovic, un ingaggio stratosferico. Sì, sono cambiate le regole del mercato, non del gioco in questo caso. Come dicevi bene te, ci sono un sacco di regole da rispettare, un sacco di vincoli, un sacco di equilibri da rispettare, non sempre questi sono strettamente legati alle capacità in campo. Un saluto alla Puglia pallavolista. Sì. Che è una delle regioni con il maggior numero di squadre di alto livello, a livello maschile soprattutto, grande tradizione, davvero un posto particolare. Un giorno mi porti a fare un giro della Puglia, invece di lasciarmi sempre qua. Senti Andrea, tra due minuti incomincia il 2012 del calcio, pochi se ne saranno accorti, come dicevo prima, però c'è Siena-Lazio. Io ti saluto, spero che sabato prossimo tu possa passare da queste parti. Sì, sarò con voi. Grazie ad Andrea Zorzi, ciao a tutti. A Giorgio De Luca in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. Con lo sport ci sentiamo domani pomeriggio dalle 4:30 alle 7, come ogni domenica del calcio. A tempo di sport.